Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi è venerdì e quindi davanti a me c'è il dottor Franco Confallonieri. Buongiorno, dottore. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Però abbiamo anche Peter Bescapain, regia la parte tecnica, in assistenza Flavio Suardi. Non dica nulla, perché non anticipiamo il tema di oggi, perché abbiamo un sommario ad hoc. Andiamo a sentirlo. Ti piaci oppure vorresti migliorare qualcosa del tuo aspetto fisico? Scopri con noi cosa fare per un allenamento in tutto benessere. Gli ormoni guidano le nostre preferenze musicali. Uno studio lo dimostra. Giornata mondiale dell'emofilia. Dottor Confallonieri, adesso sì che possiamo parlare, possiamo lanciare il tema di oggi. Punti critici, punti di forza, punti dolenti. Oggi ci occupiamo di una remise en forme a 360 gradi e lo faremo naturalmente come sempre con il suo aiuto. Ciascuno di noi ha delle parti che vorrebbe cambiare e modificare, altre su cui investe di più perché danno soddisfazioni, a volte vorrebbe lavorare ma qualcosa lo blocca. Questo è un po' il tema, sì, della puntata di oggi. Vorremmo proprio che ciascuno di voi ci raccontasse qual è il suo punto critico, qual è la parte del suo corpo che vorrebbe cambiare. O perché non gli piace, o perché gli dà qualche problema, qualche dolore, gli impedisce di sentirsi al top o di presentarsi al top. Quindi cosa vorreste cambiare di voi? E noi potremmo aiutarvi a capire se si può cambiare, come, in che modo, attraverso quali interventi. Possiamo anche chiedere ai nostri amici da casa di raccontarci invece quale parte dà loro più soddisfazione, gli addominali tonici, i muscoli delle gambe. Certo, oppure se sono riusciti a superare il loro punto critico e a piacersi sempre di più proprio perché ci hanno lavorato sopra e adesso si amano un po' di più. Dottor Confallonieri, stavo pensando, no, il suo punto critico non voglio saperlo. Grazie. Invece mi piacerebbe guardare il bicchiere mezzo pieno con lei. Qual è il suo punto di forza? Fisicamente. Certo. Le spalle. Le spalle. Piacciono, sì, spalle larghe, un buon portamento, questo di me piace. Da macho. Da macho no, però mi piace. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde se volete intervenire, raccontarci un po' come, cosa fate, come state lavorando, che difficoltà incontrate. Ciascuno ha, come sempre, i piccoli punti deboli su cui magari insistere un pochino di più. Siamo andati a sentire quelli di Lilli Gruber, conduttrice di 8 e mezza, autrice di Streghe, la riscossa delle donne d'Italia, pubblicato da Rizzoli Editore. Io cerco di essere abbastanza sportiva perché questo mi serve per la salute fisica e mentale, per cui faccio dallo jogging alla camminata veloce in salita, la bicicletta, canottaggio. Naturalmente le gambe sono abbastanza forti perché se no non riusciresti a correre bene, anche per esempio per fare canottaggio ci vogliono le gambe forti, perché insomma io vengo dalle Dolomiti, ho sempre sciato, ho fatto danza per tanti anni, quindi direi che le gambe le ho abbastanza solide e questo dà un grande senso di sicurezza, devo dire. Allora, il mio punto debole sono le spalle, nel senso che tendo ad accumulare tutte le tensioni nelle spalle e quindi mi fa spesso male anche la cervicale e quindi anche la testa ogni tanto, e quindi quando faccio i pesi per sia per le braccia che per le spalle dovrei stare un pochino più attenta, perché in realtà forse lì andrebbe meglio mettere i muscoli a riposo. Però insomma, siccome penso anche che bisogna far lavorare il più possibile tutti i muscoli del corpo, allora sono forse un po' così, un po' più tollerante anche con i miei dolori. Poi certo, quando uno corre ogni tanto hai un po' male al ginocchio piuttosto che alla caviglia, ma insomma diciamo che non è che siamo poi sempre lì ad ascoltare tutti i dolorini, no? Dottor Confalonieri, mi piace molto Lily Gruber e ci racconta, ci dà delle informazioni molto importanti. Lei diceva, dottor Confalonieri, il mio punto forte sono le spalle, sono invece il punto debole di Lily Gruber. Sì, e probabilmente qua possiamo già intravedere un errore, nel senso che c'è questo atteggiamento estremamente positivo, estremamente costruttivo, faccio tanta attività fisica per stare meglio e va sicuramente bene, però sia la corsa, sia soprattutto la camminata in salita, sia in parte il canottaggio, sono attività che possono comportare un sovraccarico a livello delle spalle, in particolare della colonna cervicale, e quindi peggiorare quella situazione che si determina naturalmente di sovraccarico, di accumulo delle nostre tensioni a livello cervicale. Quindi in questo caso lo sport da un lato fa bene, dall'altro, perché garantisce a Lily Gruber il fatto di avere delle belle gambe, di sentirsi bene nel proprio corpo e soprattutto sulle proprie gambe, però dall'altro lato complica questa situazione naturale che predispone ad accumulare tensioni e quindi dolori a livello della cervicale delle spalle, facendole diventare sempre di più un punto critico. Ecco, un'esperienza per cui modificare qualcosa nell'allenamento potrebbe aiutarci a vivere meglio il nostro punto critico. Andiamo invece a sentire che cosa ci ha raccontato Alessandro Cecchi Paone, conduttore televisivo. Come per tutti i maschi che si avvicinano alla maturità, certamente il punto che dà fastidio perché è più difficile da gestire è il punto vita, la pancia e le cosiddette maniglie dell'amore, perché è una legge fisiologica, l'accumulo di adipe è addirittura previsto dalla genetica e dal cambiamento dei ritmi ormonali. Questo non vuol dire che ci piaccia, anche se è previsto dalla natura, e dunque il vero problema da risolvere per tutti gli uomini sopra i 40 come me è quello. Io sono molto contento da sempre, in generale e tuttora, delle mie doti di resistenza, sia psichica che fisica, a qualunque tipo di sforzo, a qualunque tipo di difficoltà, a qualunque tipo di prova. Questo vale per il dover restare sveglio se necessario, questo vale per il dover restare concentrati o lucidi se necessario, questo vale fisicamente sulla corsa, sul camminare, sulla respirazione, sul nuotare. Insomma, per fortuna fin da sempre ho avuto sempre una forte tenuta sulla lunga distanza. Sono un fondista nella vita in generale, quindi anche dal punto di vista fisico. Dottor Confalonieri, la pancetta è anche un problema per molti dei nostri ascoltatori, maniglie dell'amore, ci scrive Fabio, che faccio, un altro ascoltatore, ho la pancia e sono metodo efficace contro la pancetta, tocca la pancetta, con gli anni arriva? A parte che il fatto che si ponga problemi sulla pancia e sulle maniglie dell'amore Alessandro Cecchipone, che io ricordo all'Isola dei Famosi, non mi sembrava proprio uno con una gran pancia o dei grandi fianchi. Magari nel frattempo gli è venuta. Li ha accumulati, sì. Però tutto sommato ci sta, lo diceva molto giustamente, cioè geneticamente noi uomini siamo predisposti ad accumulare grasso a livello della schiena sotto le scapole, sì, il cosiddetto grasso dell'orso, e a livello della pancia e dei fianchi, quindi delle maniglie dell'amore. E io credo che un minimo di grasso lo dovremmo accettare, cioè fa parte delle nostre caratteristiche, rappresenta un po' quella riserva che ci consente poi magari, come diceva giustamente il nostro ospite, di essere più resistenti non solo sul piano psichico ma anche sul piano fisico, la riserva che ti consente di saltare due pasti o di fare una notte insonne o di resistere a situazioni e sollecitazioni particolari. Quindi il mio consiglio di fondo è un minimo accettatelo, poi è chiaro, un girovita eccessivo diventa un problema estetico ma anche un rischio per la salute quando soprattutto supera certi livelli, e qua magari torneremo su questo argomento. Si può intervenire sul piano fisico, cioè dell'allenamento, ma l'efficacia di qualsiasi tipo di allenamento è molto modesto. Si può intervenire soprattutto sul piano nutrizionale, riducendo in modo intelligente l'apporto calorico e quindi andando ad eliminare quei depositi di grasso che tipicamente nell'uomo si localizzano a livello della pancia. Quindi consigli per chi vuole migliorare l'aspetto fisico, tonificare magari l'interno coscia, buttare giù un po' la pancetta, ma anche consigli per chi, come diceva Lilli Gruber, facendo attività fisica avverte dei dolorini. Esatto. Lilli continua e invece magari questi dolorini per alcuni sono come una sorta di stop e quindi smettono di fare attività fisica. Esatto, perché questa cosa è molto diffusa, cioè magari noi decidiamo che non ci piacciamo tanto, che vogliamo essere un po' più belli, un po' più in forma. Iniziamo con l'attività però relativamente motivati, abbiamo un problema, quel problema diventa un po' anche la scusa per fermarci proprio perché la motivazione era relativa, quindi non soltanto qual è il vostro punto debole a livello estetico ma anche qual è il vostro punto debole a livello scheletrico, muscolare, dove parte il dolore, cosa fare per superarlo e per mantenere alta la motivazione a continuare a fare esercizio fisico. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Vi siete mai chiesti perché ci sono canzoni che in alcuni momenti ci piacciono, ci rendono felici, mentre la stessa canzone in altre situazioni, in altre giornate, ci dà addirittura fastidio? È una domanda curiosa, se la sono fatte alcuni ricercatori e hanno trovato forse una soluzione, una spiegazione. Ce la racconta la dottoressa Erika Sibillo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Medico ed esperto in musicoterapia, dottoressa, abbiamo qua come sempre al venerdì, spesso vi incontrate qua a Radio 24, il dottor Confalonieri. Dottore, faccio subito un test, le è capitato di avere delle canzoni che magari a giorni alterni le suscitavano emozioni differenti? Sì, direi che la maggioranza delle canzoni scatena sempre lo stesso tipo di emozioni, però alcune effettivamente, soprattutto alcune musiche, più che alcune canzoni in cui c'è anche l'associazione con il testo, ma alcune musiche in particolare possono scatenare emozioni diverse in funzione del mio stato di base, vede? Credo. Dottoressa Sibillo, i ricercatori di Atlanta hanno quindi lavorato un po' anche per il dottor Franco Confalonieri. Che cosa hanno scoperto? Allora sì, rassicuro il dottor Confalonieri, è cosa assolutamente normale e verificata e studiata. Cioè praticamente questi ricercatori si sono fatti questa stessa domanda, diciamo più o meno in questi termini, e sembra siano arrivati alla risposta. Allora già sappiamo, e gli studiosi già lo sanno, che in molte specie, animali, esseri umani compresi, noi abbiamo dei livelli ormonali che circolano nel sangue, che vanno a modulare la percezione di tutti quei segnali che ci arrivano e che riguardano i nostri processi sensoriali. Quindi tutto l'insieme dei comportamenti umani non si spiega soltanto per esempio con l'ambito cerebrale, neuronale dell'uomo, ma anche grazie a quel gioco sottile di equilibrio endocrino, cioè legato alla produzione e alla secrezione degli ormoni. Ora gli scienziati, perché questo studio è curioso? Perché per verificare come questi ormoni possono provocare dei cambiamenti nella nostra percezione uditiva, cioè mentre noi ascoltiamo una musica, sono andati a studiare, pensate un po', il canto degli uccellini nella loro stagione riproduttiva. Siamo in primavera, per cui il tema più attuale non poteva esserci, cioè in quel periodo, la stagione riproduttiva, in cui i livelli ormonali subiscono degli importanti cambiamenti, si alzano, si abbassano, comunque si modificano. Questi cicli ormonali sono accompagnati nello stesso modo da altrettanti importanti cambiamenti nei comportamenti e in particolare nelle risposte ai segnali del corteggiamento. Allora, il risultato interessante è stato vedere che la risposta dell'uccellino femmina al canto dell'uccellino maschio dipendeva dai livelli più o meno elevati nel sangue di un ormone estrogenico, l'estradiolo, che è presente anche nell'essere umano. Quindi questi animali canori per eccellenza sono diventati il modello ideale con il quale studiare questi effetti ormonali sulla nostra funzione uditiva. I ricercatori poi si sono accorti che nelle femmine degli uccellini che trattavano con questo ormone per simulare la stagione riproduttiva, i neuroni del sistema uditivo rispondevano sempre al canto del maschio, producendo anche una maggiore sintesi di una proteina. Insomma, andavano a stimolare il sistema uditivo, che era in grado di elaborare i toni e le frequenze dei suoni in maniera più efficace, quindi una maggiore risposta. Insomma, nell'uomo possiamo dire che quando c'è queste variazioni ormonali si modifica sensibilmente il modo di percepire gli stimoli che ci provengono anche da una musica. Dottoressa Sibillo, dottor Confalonieri, ha capito tutto? Sì, assolutamente. Quindi speriamo che magari un musicista estroso, d'accordo con questi altrettanto estrosi, direi, ricercatori, magari crei una musica adatta ad ogni stagione, ormonale compresa, dottoressa Sibillo. Ma sì, sono convinta così. E poi, visto che state parlando di come si guarda il proprio corpo, come lo si può anche accettare, tenete conto che se la musica è importante per aiutarci a star bene, anche in questo caso, il fatto di sentirci talora entusiasti, di ascoltare un buon brano musicale, di sentirci anche, ma diciamolo pure, sexy, può dipendere anche da un buon ascolto, da un buon equilibrio che abbiamo all'interno del nostro corpo. Quindi anche al dottor Confalonieri un augurio e a voi radioascoltatori di ascoltare sempre buone musiche che possano darvi sempre il tanto e sospirato benessere. Dottoressa Sibillo, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie anche a voi. Pronto soccorso. Dottor Confalonieri, dobbiamo lavorare parecchio, arrivano tantissimi messaggi, telefonate, sicuramente il problema della cervicale è un problema molto diffuso, le tensioni si accumulano, per cui molti ascoltatori ci scrivono per questo mi blocco e la cervicale si fa sentire anche, ad esempio, per un ascoltatore durante il nuoto, perché ci scrive? Ma ecco, il problema della cervicale è un problema molto più vasto di quello che sembra, cioè si tende spesso a banalizzare dicendo io accumulo le mie tensioni arrivo dalla cervicale e quindi ho dolore. Ecco, non è soltanto così. È chiaro che è un punto di accumulo di una serie di tensioni a livello muscolare. È altrettanto chiaro che, per esempio, invece le problematiche della cervicale possono derivare da problematiche posturali. Sì. Quindi una postura sbagliata, spesso abbiamo parlato di questo, può portare a un sovraccarico specifico a livello della cervicale. Possono dipendere invece da problematiche indotte da uno squilibrio muscolare, cioè un inadeguato sviluppo muscolare, soprattutto della schiena, può comportare un sovraccarico specifico a livello della colonna. Dipendono spesso, e questo forse è il caso del nostro ascoltatore, da problematiche a livello delle spalle che si scaricano a livello della cervicale. Nei nuotatori, per esempio, quindi anche probabilmente nel nostro ascoltatore che è un nuotatore amatoriale, il dolore cervicale è molto spesso un dolore riflesso che dipende da problematiche scatenate da squilibri a livello della spalla. Quindi bisogna partire da un riequilibrio della spalla o da una correzione del gesto tecnico del nuoto per risolvere il problema a livello della cervicale. Sentiamo qual è il punto debole o il punto forte o il piccolo problema di Francesco che ci chiama dalla provincia di Milano, 824 0024. Francesco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho 31 anni, faccio attività fisica costante, però da quando sono nato sono afflitto da questo, tra virgolette, male delle maniglie dell'amore che affligge un po' tutti gli uomini. Sì. La domanda che volevo fare, oltre al fatto di sapere se l'attività fisica può aiutare sicuramente, era quella di capire come mai, ad esempio nel mio caso, qualsiasi cosa mangio sicuramente va a finire lì, nelle manigliette. Francesco, si sono affezionate. Dottor Confalonieri, no, vedevo se, ma non si vedono le sue. Ma come mai Francesco fin da piccolo, ci sono anche dei bambini, è un po' la costituzione. Ecco, il fatto fin da piccolo è un po' atipico, nel senso che comunque noi abbiamo una trasformazione legata proprio all'evoluzione ormonale di ciascuno di noi che avviene nei maschi tra i 14 e i 16-17 anni, che spesso modifica radicalmente la nostra costituzione e quindi la nostra distribuzione del tessuto grasso. Però quello che è importante sottolineare, anche per rassicurare il nostro ascoltatore, è che la distribuzione del tessuto grasso risponde a precise leggi genetiche. Quindi non possiamo modificarla. Sì, però così non come ci dà tante buone notizie. No, questa è la cattiva notizia. Così come moltissime donne lo accumulano, soprattutto a livello dei glutei, a livello delle cosce, sì, e moltissimi uomini lo accumulano a livello della pancia e a livello dei fianchi, e cioè delle maniglie dell'amore. E qua c'è poco da fare, cioè noi dobbiamo ridurre il nostro apporto calorico rispetto al consumo. Quindi se noi consumiamo di più di quello che introduciamo, eliminiamo tessuto grasso, quindi elimineremo anche le maniglie dell'amore. Fare un esercizio fisico ci può servire in quanto aumenta i consumi, non in quanto porta ad un consumo selettivo del grasso localizzato a livello dei fianchi. Questo vorrei che fosse molto chiaro. Noi lo perderemo tutto, in proporzione perderemo anche quello, ma se qualcosina rimane, rimarrà lì. Sempre lì. Guido ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io più o meno la risposta è già stata un po' data. Io sono 1,70 per 60 kg, mi rendo conto che andare al di sotto di questo peso mi è molto difficile. Ma certo. Direi di sì. No, ma ho un fisico asciutto, diciamo che è un ottimo aspetto fisico, non mi lamento. Però c'ho sempre quelle maniglette. Io vedo alcuni uomini che invece proprio hanno l'aspetto tirato, proprio sì. Deve essere una differenza fisica. Io volevo sapere, siccome la mia base nutrizionale è verdura, io mangio tantissime verdure. Però volevo sapere se posso lavorare in qualche modo su quelle maniglie. Se ci sono degli esercizi, ma le manigliette, ho capito che al dottor Franco Confalonieri tutto sommato piacciono. Sì, le insomma, accettate, le sue le io accettate. Io parto da una filosofia che ciascuno deve un po' accettarsi per quello che è, quindi accettare anche quello. Cosa dire in più rispetto a quanto abbiamo già detto? Che forse lavorare da un lato sulla postura e dall'altro lato sulla struttura globale del nostro organismo potrebbe aiutarci, cioè non concentriamoci esclusivamente sulla maniglia e su quella zona, cerchiamo di modificare un po' la nostra postura, cerchiamo magari di migliorare muscolarmente il tono della schiena da una parte, degli addominali dall'altra, di allargare il torace e le spalle, e probabilmente anche l'aspetto che queste maniglie assumono si riduce, e quindi si riduce il nostro problema. Quindi una sorta di camouflage. Esatto. Siamo tornati insieme, abbiamo in linea con noi Maria dalla provincia di Milano. Buongiorno Maria. Buongiorno, volevo chiedere al dottore, io ho sempre avuto problemi alla pancia, mi accontento di tutto il resto del mio corpo, ma la pancia vorrei eliminarla. Cioè, anche dopo le gravidanze è scesa, ma non è scesa come vorrei io. Ho provato a fare nuoto, ho provato a fare ginnastica, però ho anche molto tensione alla colonna. E seguo anche una dieta abbastanza equilibrata, cioè non sono un tipo pasticcione assolutamente. Dottor Confalonieri. Beh, questo è un problema molto comune. Diciamo che la pancia non è quasi mai il punto critico nelle donne prima della gravidanza. Post gravidanza diventa sicuramente un punto critico, nel senso che è molto difficile recuperare il tono e quindi c'è quel grasso che si è accumulato e diventa difficilissimo da eliminare. Qua ecco, il nuoto non è sicuramente lo sport più adatto, perché non è uno sport che comporti un consumo di grasso selettivo a questo livello. Forse dovrebbe fare un lavoro un po' più impegnativo dal punto di vista calorico e un po' più mirato alla pancia, e poi indubbiamente ci sarebbe la necessità di ridurre ulteriormente l'apporto calorico se proprio la vuole eliminare. Da questo punto di vista possono essere anche utili interventi tipo massaggi con uno scopo di tipo estetico, localizzati a livello della pancia, per riattivare una microcircolazione che può, non dico aumentare il consumo dei grassi, però ottimizzare il consumo dei grassi legato poi a un esercizio fisico mirato. Andiamo subito a sentire che cosa ci racconta Anna da Verona. Anna, buongiorno. Buongiorno. Qual è il suo punto critico? Allora, il mio punto debole, visto che si parla di punti di forza e punti deboli, in questo caso, nel mio caso, ecco, sono le gambe, soprattutto dal ginocchio in su. Sì. Io ho 53 anni, sono entrata già nel periodo, io lo chiamo critico, anche se non mi sento tale, perché mi sento molto bene, e le gambe purtroppo sono sempre meno toniche, nonostante vado molto in bicicletta, perché i miei spostamenti sono a piedi o in bicicletta. Sì. Questo problema delle gambe non è un problema adesso dei 50 anni, ma è un problema che più o meno ho sempre avuto. Quando ero più giovane. Anna, invece il suo punto di forza? Ma il mio punto di forza complessivamente, guarda, nonostante i 50 anni, mi voglio molto bene e mi piaccio, quindi tutto sommato... Bene, questa è la cosa... Sono arrivata a questa età, direi molto molto in forma. Bene, questo mi piace, Anna. Allora, dottor Confalonieri, gambe. Ma già il ciclismo in teoria è uno sport adatto, quindi probabilmente c'è un problema di predisposizione genetica. Poi non ho capito se qui il problema è più di un inadeguato sviluppo muscolare o di un accumulo di tessuto grasso. probabilmente c'è un inadeguato sviluppo muscolare. Il mio consiglio potrebbe essere abbinare il ciclismo con l'elettrostimolazione in questo caso, per cui un po' di elettrostimolazione a livello della parte superiore delle gambe, cioè del quadricipite, del bicipite femorale, potrebbe abituare i muscoli a lavorare con caratteristiche e regimi di forza diversi da quelli utilizzati nel ciclismo e quindi dare dei benefici anche abbastanza rapidi e abbastanza significativi alla nostra amica. Dottore, lei mi parla di elettrostimolazione e allora bisogna aprire un po' una parentesi e fare delle precisazioni per non fare delle cose improvvisate. Quando lei dice di abbinare l'elettrostimolazione, a che tipo di elettrostimolazione si riferisce? Dove si fa? Giustissimo. Quanto? Con che apparecchi? Perché qua allora, c'è una selva di proposte. Il mio consiglio sarebbe andare da uno specialista, quindi da un preparatore atletico, da un istruttore laureato in scienze motorie e concordare con lui un programma in questo caso di potenziamento, quindi un'elettrostimolazione mirata al potenziamento e al rafforzamento muscolare, quindi non un'elettrostimolazione mirata al recupero post infortunio o a finalità di tipo estetico, un potenziamento integrato con l'attività che già fa la nostra ascoltatrice, e cioè con il ciclismo. Quindi lui andrà, il nostro preparatore andrà a selezionare quei programmi che consentono di coinvolgere il muscolo in modo diverso da come è già coinvolto dal ciclismo. In questo modo noi andremo da un lato a tonificare, dall'altro lato a potenziare, dall'altro lato addirittura a incrementare la massa muscolare della nostra ascoltatrice attraverso un programma mirato. Non è possibile fare da sé e non è possibile utilizzare quei programmi predeterminati proprio perché l'obiettivo è specifico e mirato e va integrato con un esercizio globale che la nostra ascoltatrice già fa. Aiutiamo Salvatore che ci chiama da Palermo, che secondo me ci porta a trattare un tema che rappresenta un problema per molti uomini. Ho il petto floscio, si avvicina alla prova costume e provo vergogna ad andare in giro, ho 40 anni e non riesco a tonificarlo, consigliatemi. Dottor Confalonieri, questo è un problema serio per molti uomini, soprattutto quando si arriva ad una certa età e il sovrappeso carica, no? questo problema. Che cosa si può fare? Ginnastica, dieta, potenziamento muscolare? Allora, qui abbiamo tre problematiche che possiamo affrontare molto brevemente. Innanzitutto, il petto e i pettorali in particolare rispondono molto bene all'allenamento. Quindi qui siamo fortunati. Se il nostro ascoltatore fa un lavoro mirato sui pettorali, ben gestito in funzione di un incremento del tono muscolare, della massa muscolare, sicuramente i risultati sono molto rapidi. Quindi il primo consiglio è andare in palestra e fare un programma mirato allo sviluppo dei pettorali e sicuramente la risposta sarà molto rapida. Quali sono ad esempio gli esercizi che gli verranno suggeriti? Pesi? Beh, saranno esercizi sulla panca, quindi prevalentemente magari non farà subito la panca piana, partirà con una panca verticale o con una panca inclinata e farà delle serie mirate allo sviluppo della massa proprio per raggiungere risultati molto rapidamente, quindi con carichi intorno al 60-70% dei suoi carichi massimali e ripetute 10-12 ripetizioni. Due, può esserci un problema di accumulo di tessuto grasso, non è tipico, così come in altre zone l'accumulo a livello pettorale, vuol dire che c'è un accumulo globale importante se c'è anche a livello pettorale, per cui non credo che sia poi fondamentale. In questo caso vale il consiglio generale, caliamo di peso. Terzo, potrebbe non essere un problema di petto floscio, ma potrebbe esserci uno sviluppo abnorme per il sesso maschile di tessuto ghiandolare a livello mammario e quindi a livello del petto, e questo è difficilmente risolvibile, cioè con questo bisogna conviverci. Ci sono uomini che hanno uno sviluppo un po' maggiore del tessuto ghiandolare mammario e quindi questo rimane comunque. Andiamo invece a Varese, ci aspetta Barbara. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Il punto che le piace di più? Iniziamo con le buone notizie. Magari l'altezza. Perché quanto è alta Barbara? 76. Altezza mezza bellezza, si dice. Vede? Mi ha rubato la battuta. Però non potete portare, io che sono invece piccoletta, dico non potete portare i tacchi alti. È vero, è vero. No, perché così salviamo anche le piccoline come me. Barbara, invece il punto che le dà un pochino più di, insomma, allora, fastidio? Mi dà veramente fastidio, una cosa proprio che non riesco a accettare di me. è il fatto di avere le gambe storte e soprattutto perché ho il ginocchio valgo, ma questo dalla nascita, perché è una cosa che ho dalla nascita, che portavo, mi ricordo da piccola, le scarpe ortopediche, che peraltro non sono servite a niente, cioè proprio queste ginocchia che si guardano in dentro. Sento anche di avere un problema di postura, nel senso che ho purtroppo sul piede destro questo alluce. Ho il dito più lungo vicino all'alluce, io ho questo alluce che mi picchia sempre sulla punta delle scarpe, sempre, qualsiasi scarpa compro, a meno che non compro solo quelle tipo ortopediche, diciamo, un po' con la punta quadrata, ecco. Devono avere la punta quadrata tipo college, tipo quelle scarpe sportive che si portano coi pantaloni, e devono avere sempre il tacco largo, perché altrimenti io vedo non cammina bene. Mi sento anche con un tacchetto basso, anche quelli femminili sottili, mi sento il piede che lo tengo sul lato destro, diciamo, lo tengo non ha un buon appoggio. Barbara, però, dottor Confalonieri, nelle sfilate noi vediamo anche, ne parlavamo una volta, vediamo anche bellissime modelle che non hanno proprio le gambe alla Sofia Loren, nel senso che sono secche, anche un po' stortine. Beh, innanzitutto sì. Quindi forse è cambiato un po' anche l'idea della gamba femminile, o no? Beh, io non sono... No, ma intanto un per un giudice, da non questo dica punto così. Di vista, però voglio dire, molto spesso si associa un'altezza superiore alla media con una gamba che non è perfettamente diritta. Vede? Proprio perché un sovraccarico legato all'altezza comporta in età evolutiva un sovraccarico a livello articolare e l'accentuazione di curve che sono fisiologiche. E qui purtroppo il grosso lavoro andrebbe fatto da bambini, e qui faccio un piccolo inciso. Bravo, con perché sarebbe veramente importante prendere i bambini fin verso dai 6 ai 10 anni, che è un'età in cui ancora si può intervenire, verificare se c'è una predisposizione al ginocchio varo, al ginocchio valgo, quindi alla gamba storta, a un appoggio sbagliato del piede, e intervenire subito, da un lato con la ginnastica, dall'altro lato con i plantari, i supporti e quant'altro. Purtroppo non è più di moda né la ginnastica correttiva né questo tipo di visite, e non si fa più. A questo punto, per la nostra ascoltatrice, quello che posso dire è che si può lavorare a tre livelli. Primo livello, utilizzare comunque dei supporti, dei plantari che possono modificare l'appoggio e quindi ridurre il problema a livello del piede. Secondo livello, potenziare, riempire le gambe, perché delle gambe più piene, delle gambe più potenti riducono l'impatto estetico di queste gambe a X. Terzo livello, valutare se queste gambe, questo appoggio comportano dei problemi a livello di postura e quindi di colonna, per evitare che questo poi diventi anche un problema di dolore e riflesso a livello della colonna. Punto debole, i polpacci grossi, ma adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e subito dopo ci occuperemo dei polpacci. Si possono smagrire un po', dottor Confalonieri? No, si possono solo nascondere. Va bene, allora proveremo a nasconderli. Dottor Confalonieri, rispondiamo a Sabrina e ad alcune altre nostre ascoltatrici, alcune che non si firmano, immagino che siano donne, che lamentano questo polpaccio grosso. Se non si può ridurre, o lei diceva si può in qualche modo mascherare, ci sono delle attività però sportive che potenziano, per chi nasce già un po' strutturato col polpaccetto, se lavora troppo sul polpaccio, il muscolo... Ma allora, per il 90% delle persone... Il problema è il contrario, c'è un polpaccio piccolo e la difficoltà a renderlo armonico ed equilibrato col resto dell'organismo. Quindi io da un certo punto di vista le considererei fortunate. Poi a me personalmente piace il polpaccio grosso. Vabbè, però non sono è che dobbiamo ancora più tutte fortunate. A lei. ciò detto, sì, è chiaro. Tutte le attività come la pallavolo, il basket, che prevedono un utilizzo importante di questa muscolatura, la danza, determinano un ingrossamento del polpaccio. Attività invece come il nuoto, per esempio, riducono il potenziamento del polpaccio e quindi non accentuano questa che è una caratteristica naturale. Dicevo, nasconderlo sì, perché qui non è un accumulo di grasso, qui è proprio una genetica tale per cui quel muscolo è particolarmente sviluppato. Chiudiamo sui polpacci, perché sono già arrivati 7-8 messaggi. E quelli magri? Quelli magri sono più facili. Quelli magri sono un problema anche loro, perché è molto difficile. Il muscolo del polpaccio sono i gemelli, è un muscolo che risponde poco all'allenamento. Quindi anche lavorando in palestra è molto difficile ampliarli. Nel mondo del bodybuilding, io ho lavorato tanti anni, il polpaccio è sempre stato il tallone d'Achille dei grandi bodybuilder, di tantissimi grandi bodybuilder, perché era difficilissimo potenziarlo in modo armonico con il resto della muscolatura. E sta malissimo, il polpaccio magro con la coscia sviluppata, bravissimo. Perché sa un po' l'effetto di... Bravissima. Lo so. Va bene, andiamo ad Antonio che ci chiama da Chieti. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Lei come polpacci sta bene? No, io parlo in nome di mia figlia. Ah, va bene. Vorrei un'informazione, che sono un padre in apprensione. Allora, io sono una figlia che noi abbiamo adottato, anche geneticamente non lo sappiamo. Adesso c'ha 19 anni, della Colombia, colombiana diciamo. Sì. Lei c'ha una fissa che c'ha le gambe, la parte superiore delle gambe, che sono grosse, e mi fa un'attività fisica tipo arti marziali, va in piscina per ridurre sempre questo tipo di che lei chiama, che sono brutta a vedere le stesse gambe, perché lei come postura è dritta, la schiena dritta, potenzialmente i muscoli stanno a posto, però sono proprio muscoli. E noi io vorrei sapere se fa bene a fare 3 volte a settimana, se arti marziali e piscina, oppure no. Grazie Antonio. Dottor Confalonieri. Ma qui è un problema proprio di costituzione, addirittura di razza, direi, più che di costituzione. Cioè le donne latinoamericane o centroamericane, questa ragazza mi sembra sia colombiana, indubbiamente hanno una struttura a livello delle gambe più massiccia delle donne caucasiche, e quindi qualcosa che a livello della sua terra sarebbe assolutamente normale, qui viene vissuto come un complesso. Difetto fisico. Purtroppo c'è poco da fare. Sia il nuoto sia le arti marziali sono attività adatte. Il nuoto perché comunque tende a consumare senza incrementare la massa muscolare, l'arte marziale perché oltre a comportare un consumo probabilmente l'aiuta a gestire con maggiore eleganza e maggiore naturalezza quelle che sono le sue caratteristiche fisiche. Bruna ci chiama da Cuneo. Buongiorno Bruna. Buongiorno e complimenti per la vostra trasmissione. Io ho chiamato, infatti la mia domanda è sicuramente stata già risposta, era per quanto riguarda le gambe magre. Sono una persona un po' bassa, 55, sono misura, cioè il mio peso è di 40 kg più o meno. Sì, lei scusi Bruna, perché non la sento tanto bene, forse perché parla molto veloce. Anche il dottor Confalonieri vedo che ha qualche difficoltà, siamo un po' anziani. Allora, Bruna, lei ha le gambe magre? Sì, esatto, un pochino tutto quanto, perché come dicevo... sono alto 1,55 e peso 40 kg, quindi un pochino tutto un po' armonioso. Cioè l'unica cosa che però mi rende un pochino, che il corpo dice un po', sono appunto le gambe, che sono abbastanza magre. Seguo anche una dieta un pochino ipercalorica, nel senso che mangio un po' più di pasta. Ma con quelle buone panne cotte che avete a Cuneo, i Bunet, io e il dottor Confalonieri saremmo felici, saremmo 200 kg. Che cosa si può fare per... Beh, qui c'è secondo me fondamentalmente un problema di sottopeso, perché comunque anche con un'altezza di 1,55, 40 kg sono un po' pochini. Pochi. Quindi il mio e chiaramente questo si riflette dove? Laddove abbiamo le masse muscolari più importanti, cioè le gambe. Cioè si vede subito lì. Quindi il mio consiglio è una dieta iperproteica, non una dieta ipercalorica, ma iperproteica. Non aumentare con la pasta o con la panna cotta, ma per esempio aumentare con le carni bovine, che comunque alcune non stanno male. Ma lei no, certo. Ecco, stiamo sul territorio. Aumentare la quota di carne, aumentare la quota proteica e abbinare questa con un'attività fisica mirata all'incremento della massa muscolare delle gambe. Però la chiave è aumentare un po' il peso attraverso un incremento del tessuto muscolare. Troppo magretta, sono troppo pochi, sì. Bruna. Luigi da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi concesso di poter esporre questo problema che assilla me ma a tutta la nostra categoria di tassisti. Sì. Passiamo 12 ore seduti in macchina. Lo so. Nelle aree di sosta cerchiamo di fare meditazione, zen e quant'altro, però non è sufficiente per eliminare questa pancetta che tutto sommato rovina un po' il resto dell'aspetto fisico, perché a livello di busto e di gambe andiamo bene, siamo rovinati nella fascia. Sì, ma voi state seduti, fatevi vedere così, state seduti e fate la vostra bella figura. Ma quando scendiamo per aprire la portiera e caricare il bagaglio non siamo una bella vista. E, già hanno consigliato noi, poi parlando con i miei colleghi, di fare attività fisica a palestra lavorando sugli addominali. Chiaramente facendo addominali da sdraiato, quindi alzarsi, ho avuto una lussazione alla colonna vertebrale. Sì. Chiedo, il nuoto adesso posso andarlo a fare avendo avuto questa lussazione agli anelli della colonna vertebrale? Allora, dottor Confalonieri. C'era un mio collega, di cui non dico il nome, che risolveva questo problema facendo l'elettrostimolazione mentre guidava. Potrebbe essere un'idea un po' al limite, ma tutto sommato che potrebbe funzionare. Ciò detto, direi sì, sicuramente il nuoto si può fare anche con una lussazione a livello vertebrale se è un nuotatore abbastanza capace, e serve oltretutto a consumare calorie, quindi a perdere peso e a ridurre questo accumulo di grasso e questo sovrappeso legato alla ipoattività, cui un taxista è di fatto obbligato. Dottor Confalonieri, lei dovrebbe pensare ad un programma di allenamento, di remise en forme per tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando dalla macchina, dal camion, dai taxisti. È proprio un progetto, un programma mirato a loro. Guardi che sarebbe una cosa interessante. Non è semplice, ma ci stiamo lavorando. Va bene. E allora, intanto io in chiusura voglio salutare il professor Pier Mannuccio Mannucci, direttore del Dipartimento di Medicina e Dermatologia e responsabile del centro di ricerca per l'emofilia Bianchi Bonomi, sempre dell'ospedale Maggiore. Buongiorno professore. Buongiorno. Oggi è una giornata importante, è la giornata mondiale dell'emofilia. È una malattia rara, ne abbiamo già parlato, è legata proprio alla carenza geneticamente indotta di queste proteine che servono per la coagulazione del sangue. I pazienti che ne soffrono, professore, hanno delle emorragie frequenti, non solamente quelle provocate da traumi, incidenti o ferite, emorragie esterne e interne, che forse sono le più preoccupanti, le più pericolose. Per fortuna, dopo anni bui, la terapia adesso funziona e garantisce al paziente emofilico una qualità di vita. La terapia è sicura e funziona. Questa è una buona notizia, vero professore? Ha parlato con un libro stampato. Tutto quello che ha detto è assolutamente vero. È una delle, tra le malattie genetiche, una di quelle meglio curate. Speriamo che la cosa continui, perché purtroppo è una malattia costosa e con le difficoltà che ci sono non vorremmo che questo elevato livello di assistenza agli emofilici diminuisca, però attualmente non ci si può sicuramente lamentare. In linea di massima ci sono, certo, centri migliori e centri meno buoni. E a proposito di centri, c'è un progetto che mi piacerebbe che lei ci raccontasse, perché è una sorta di accreditamento professionale inter pares chiamato Improvice. È proprio un progetto finalizzato a migliorare gli standard di assistenza presi in carico di chi è affetto da questa patologia, quindi si alzano anche i livelli di cura. Professore. Sì, è un progetto che io ho già iniziato nell'ambito di un'altra società scientifica, la Società di Medicina Interna, che tratta tutte le malattie più frequenti dell'organismo, quindi malattie frequenti, ma anche nell'emofilia, cioè dove si tratta di una malattia rara. Il concetto è quello di non lamentarsi sempre degli amministratori, dei politici che non ci danno abbastanza spazio, ma di crearcelo noi lo spazio, attraverso però un miglioramento delle nostre prestazioni tecniche, attraverso un'autovalutazione, o perlomeno prima, e poi una valutazione fatta da pari, cioè da nostri colleghi. Come può ben capire, non è facile mettersi in discussione, vengono degli ispettori che però, ripeto, sono medici nei centri, e questo non è facile perché a nessuno piace confrontarsi. Naturalmente lo scopo è quello di migliorare l'assistenza ai malati internisti, e questo è già avvenuto attraverso la Società Italiana di Medicina Interna, e agli emofilici attraverso l'Associazione Italiana Centri Emofilia. Professore, mi sembra una bella cosa. I medici, insomma, si mettono in gioco per garantire una qualità di cura e di assistenza sempre più alte. Professore, complimenti, buon lavoro, buona giornata. Io devo salutarla perché la mia trasmissione si conclude qui. Grazie professor Mannucci per essere intervenuto. Arrivederci. Dottor Confalonieri, noi appuntamento alla prossima settimana, stiamo accarezzando l'idea di parlare di danza, ballo e ginnastica. Sì, allora, alternative o complementari allo sport? Danza e ballo sono alternative in lotta con lo sport, o sono anche loro attività sportiva a tutti gli effetti? Ci lasciamo così per il prossimo venerdì, invece noi ci sentiamo domani per Questa casa non è un albergo. Intanto buona giornata da Nicoletta Carbone.